Il meglio tra le mani come un deficiente, non capire niente, non capire niente. Ho avuto il meglio tra le mani come un deficiente. Avere il meglio tra le mani e non capire niente. Le piccole poche cose da tenere strette. Siamo piccole persone chiuse in piccole finestre. Anni che passano guardando fuori, che mi guardano soltanto da fuori. Chi ti guarda sa un quarto di quello che passi qua fuori. Tu che ne sai? E passami che parte il treno. Ci rivedremo dentro le tue lacrime. È tutta colpa del mio ego. Non sceglierò ciò che è meglio per me. Oh, non vorrai tenere questa stella tutta per te. Che sceglierai? Scelgo una stella o scelgo te. Scelgo le stelle o scelgo te. Scelgo una stella o scelgo me. Vivere senza una casa, ma con 5.000 euro in tasca. I bagni dentro le vasche, coi soldi come dentro una banca. Questo è come il nostro castello, e i pali sopra le torri. Ma non esistono mura a proteggere i nostri fragili mondi. I nostri guerrieri morti per due soldi. Sui nostri cavalli a due ruote. In mano uno scudo che stacca il mio culo dal giudizio di ste persone. Questa armatura mi divide davvero. Ma non si può non finire più a fondo. Quello che qui non mi uccide alla fine poi mi rende solo più stronzo. E baciami che parte il treno. Ci rivedremo dentro le tue lacrime. È tutta colpa del mio ego. Non sceglierò ciò che è meglio per me. Oh, non vorrai tenere questa stella tutta per te. Che sceglierai? Scelgo una stella o scelgo te. O scelgo te. Scelgo una stella o scelgo me. La mia spada è solo, l'impegno mio solo. In questa strada solo domande. Parlami di questo, l'elmo in testa protegge me dalla tempesta. Ma in parte che ne sarà di questi bastardi? Davvero Dio può perdonare la merda che ho fatto io in questi 10 anni. Questi 10 anni, tu che ne sai? Quello da cui scappi è da questo. Ma quello che sa che non servirà a niente. Scappare servirà sperare di cambiare, ma di me cambierà niente. Impari a pensarci due volte che ad essere buono a volte si rimette. Impari a sentirti da solo anche in mezzo ad un mare di gente. Tu che ne sai? Che ne sai? Che ne sai?